Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Lavoro, 80.000 posti in più nel terzo trimestre dell'anno, occupati in crescita, forte balzo dei contratti a termine. Gerusalemme, resta alta la tensione sulla decisione di Trump, scontri in corso, sciopero generale palestinese, condanne da tutto il mondo. Avvelenamenti da taglio, in manette il nipote, voleva sterminare tutta la famiglia, dice la procura. Skinhead a Como, perquisizioni e sequestri, mentre la procura di Roma apre un'inchiesta sul blitz di Forza Nuova alla sede di Repubblica. Nella capitale intanto esplode un ordigno artigianale davanti a una caserma dei carabinieri, si indaga per terrorismo. Pochi VIP e tanta attesa a Milano per la prima della Scala. Il mestiere di pizzaiuolo napoletano diventa patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. C'è qualche incertezza sul fatto che ci sia la diretta Facebook nella giornata di oggi? Beh, andate sulla pagina Facebook di Radio 24, andate sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, intanto mettete un like che male non fa e poi vedete se la diretta c'è oppure no. Tra poco comunque andrò a controllare anche io. In regia Andrea Roccabella, Giulia Lauricella in assistenza e redazione. Iniziamo dunque e in apertura ci sono i dati sul lavoro. L'occupazione cresce grazie soprattutto ai dipendenti a tempo determinato, che nel terzo trimestre dell'anno, certifica l'Istat, toccano il picco storico di 2,8 milioni, il livello più alto mai raggiunto in 24 anni, ossia dall'inizio della serie storica. Secondo la fotografia scattata dall'Istat, nel terzo trimestre ci sono 79.000 occupati in più rispetto al trimestre precedente e 303.000 in più rispetto a un anno fa, con un tasso di occupazione al 58,1%. Dopo due cali consecutivi, la disoccupazione rimane stabile all'11%. 10,2%, mentre diminuisce di 0,4 punti rispetto al terzo trimestre di un anno fa. Fra i segnali positivi c'è il calo del 2,2% degli inattivi, coloro cioè che non hanno un lavoro e non lo cercano, e a scendere sono soprattutto gli scoraggiati. Coloro che non cercano lavoro perché pensano di non trovarlo sono 100.000 in meno, soprattutto fra i giovani, gli uomini e nel mezzogiorno. Gli sfiduciati nella ricerca del lavoro sono comunque complessivamente ancora 1,6 milioni. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora la decisione di Trump su Gerusalemme. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Con poche parole, Donald Trump ha strappato decenni di diplomazia americana in Medio Oriente, riconoscendo Gerusalemme come la capitale di Israele. Una scelta shock che ha scatenato la pressoché unanime condanna della comunità internazionale, dall'Europa alla Cina, dall'ONU al Papa, fino ai paesi arabi filo occidentali. Tutti allarmati dal pericolo che lo strappo apra una nuova stagione di drammi nella regione e segni la fine di qualunque speranza di processo di pace tra palestinesi e israeliani. Nei territori occupati sono stati proclamati tre giorni di proteste. Trump ha negato di voler rinunciare alla pace, si è detto anzi convinto che la decisione su Gerusalemme sia solo la giusta constatazione di una realtà e che favorirà, non interromperà, l'impegno americano a favore di un accordo. Ha aggiunto che rimane per una soluzione basata su due stati per due popoli, ma ha poi dato seguito con atti concreti alla svolta che sanciscono la rottura. Ha ordinato al Dipartimento di Stato di costruire una nuova ambasciata USA a Gerusalemme, anche se richiederà anni. Marco Balsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital. Mentre a Gerusalemme i turisti attraversa più rapidamente del solito i vicoli della città vecchia, è iniziata la manifestazione di qualche decina di persone, molte le donne, sulla piazza antistante la porta di Damasco. Oltrepassata la porta, dentro le mura, negozi e botteghe del quartiere arabo hanno le saracinesche abbassate o sono chiuse per lo sciopero generale proclamato dalla leadership palestinese contro la dichiarazione di ieri del presidente americano Donald Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. Per le strade della città non c'è il solito traffico del giovedì, né di auto né di persone. Altre iniziative sono in corso in Cisgiordania, a Gerusalemme Est e a Gaza. Uffici, negozi e scuole resteranno chiusi in molte città. A Betlemme il comune ha deciso di spegnere il tradizionale albero di Natale nella piazza antistante la Basilica della Natività. Intanto a Gaza il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, in un discorso pronunciato dalla propria abitazione trasmesso dall'emittente di Hamas Al-Aqsa TV, ha fatto appello a una nuova intifada contro l'occupazione e contro il nemico sionista. Fabiana Magri, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme. Siamo alla cronaca, iniziando dalla vicenda degli avvelenamenti da tallio. Ha comprato online il tallio, il metallo usato per contaminare le tisane somministrate alle vittime. Mattia Del Zotto, 27 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver avvelenato un'intera famiglia di Nova Milanese, la sua. A perdere la vita lo scorso ottobre la zia, 62enne, Patrizia Del Zotto, il nonno paterno, Giovan Battista Del Zotto, 94 anni, e la nonna paterna, Maria Gioia Pittana, 87 anni. Delitti premeditati, dunque, secondo la ricostruzione emersa dalle indagini, dal giovane arrestato, al quale viene però anche contestato il tentato omicidio di altre 5 persone. I nonni materni, il marito della zia deceduta, un'altra zia, e la badante dei nonni paterni morti. Un arresto importante, dunque, anche per evitare altri reati, sottolineano i carabinieri. Importante anche per, al fine di scongiurare ulteriori conseguenze, quindi ulteriori possibili vittime. La svolta dopo circa 2 mesi di indagini. Sul cellulare del 27enne è stata trovata anche la ricevuta dell'acquisto del taglio. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo sulla cronaca, occupandoci di estrema destra con i due casi di queste ore, Como e Roma. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Fogli di via Como, nuovi indagati a Roma. Alla vigilia della manifestazione antifascista di sabato e dopo il blitz di ieri davanti alla redazione di Repubblica, un unico filo nero unisce le azioni delle procure Lariana e Capitolina. Dalle sponde del lago i magistrati hanno inviato forze dell'ordine nelle case di militanti del Veneto Fronte Schinese. Il gruppo, con richiami neonazisti, protagonista dell'irruzione la settimana scorsa durante l'assemblea di ONG impegnate nell'accoglienza di migranti. PC, tablet e supporti informatici sono stati sequestrati per verificare l'esistenza di un'eventuale strategia e pianificazione del blitz. Contemporaneamente la questura ha notificato a 10 indagati di altre città il foglio di via con divieto di ritorno per 3 anni a Como, dove per sabato il PD ha organizzato una manifestazione contro il ripetersi di episodi a sfondo neofascista. Per 3 residenti nella città lariana, invece, l'avviso è stato solo orale. Nelle stesse ore a Roma, almeno 2 militanti di Forza Nuova sono stati identificati dalla Digos per il raduno con lanci di fumogeni all'ingresso della redazione di Repubblica. Un fatto molto più grave, secondo il capo della polizia Franco Gabrielli, dell'ordigno esploso davanti ad una caserma della capitale. Simone. E grazie a Raffaella Calandra per questo aggiornamento, che già ci accennava dunque all'altro caso di cronaca di queste ore, ossia l'esplosione appunto di un ordigno davanti a una caserma dei carabinieri a Roma. Il servizio. È esploso questa mattina intorno alle 5.30 davanti al portone d'ingresso della stazione dei carabinieri di San Giovanni. Nessun ferito, solo danni alla porta della caserma, ad un'auto parcheggiata e ad una finestra di un edificio. Ma le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi se qualcuno in quel momento fosse passato di lì. Le indagini, alle quali partecipano anche gli investigatori del ROS, sono scattate immediatamente. Si stanno analizzando anche i video delle telecamere esterne. Atto di terrorismo con ordigno esplosivo. Questo è il reato per il quale procedono i magistrati della Procura di Roma del pool antiterrorismo, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Caporale. L'indagine è al momento a carico di ignoti e in giornata arriverà a Piazzale Clodio l'informativa redatta dai carabinieri del ROS. Fra le ipotesi più concrete è quella di un movente estremista. Un episodio analogo era già avvenuto fuori dalla stessa caserma quasi 30 anni fa, ma strutture dei carabinieri sono già state prese di mira anche più di recente in passato, come ricorda il capo della polizia Gabrielli, il quale invita ad evitare inutili allarmismi. Si tratta, dice, di un episodio gravissimo da ricondurre però nella dimensione di ciò che è stato. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca sono state deferite alla Corte Europea perché non hanno ricollocato i richiedenti asilo da Italia e Grecia. Non hanno accettato nessun richiedente asilo da Italia e Grecia. Per questo la Commissione europea ha deferito Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca alla Corte europea nell'ambito del procedimento di infrazione aperto per i mancati ricollocamenti. I 3 paesi non hanno risposto alle richieste di Bruxelles, ha spiegato il vicepresidente vicario della Commissione europea Timmermans. Una cosa deve essere chiara, ha detto. Se uno Stato membro si trova ad affrontare una crisi, deve poter contare sulla solidarietà, dice, ciascun altro Stato membro. E questo non è accaduto. Su 10.400 migranti ricollocati dall'Italia, oltre 4.100 sono andati in Germania. Gli altri 6.000 sono andati in 17 paesi europei, dalla Grande Francia fino alla piccolissima Cipro. Nessun migrante è stato accettato in Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo all'economia. Domani scade la consultazione della Banca Centrale Europea sul cosiddetto addendum sugli NPL, i non performing loans, ossia i crediti non più esigibili dalle banche o difficilmente esigibili, le sofferenze per intenderci. Atteso un rinvio dell'entrata in vigore delle nuove regole che erano state contestate soprattutto dall'Italia perché avrebbero rischiato di creare parecchi problemi appunto ai bilanci delle banche, l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, manderà domani la sua proposta alla vigilanza. Spiegarci i dettagli il direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, nell'intervista di Livia Zancaner. Dovranno essere riviste sia da un punto di vista dell'impianto generale le richieste in modo che rientrino più specificamente nelle competenze della vigilanza, che riguardano la possibilità di fare richieste non di tipo generale, cioè su tutte le banche, ma sulle singole banche nell'ambito dell'attività di vigilanza e di misurazione dei rischi specifici di ogni banca. E poi ovviamente di tener conto che queste rigidità, questi automatismi debbono essere mitigati rispetto anche proprio alla realtà dei crediti deteriorati, delle diverse condizioni, delle diverse categorie di crediti, in modo che queste possano essere gestite con una maggiore gradualità. La marcia di avvicinamento al fine settimana dell'Immacolata è già iniziata, naturalmente, perché si inizia domani e oggi in realtà si è già iniziato per almeno una gran parte dei milanesi. Tradizionale inizio delle vacanze sciistiche, tutto esaurito, c'è ottimismo anche per Natale e Capodanno e c'è voglia anche di montagna tradizionale. Le stime parlano di un forte aumento del popolo degli sciatori, ormai 4 milioni che spingono le stazioni a continuare a investire in infrastrutture, in impianti di neve artificiale, impianti che fanno aumentare i costi degli abbonamenti di circa il 2%. Massimo Ferruzzi e l'osservatorio Ski Pass di Modena, intervistato da Dario Ceccarelli. Parlando di italiani praticanti, quindi sciatori seriali, dovremmo superare i 4 milioni di sciatori nelle varie discipline ed è un risultato importante perché non si è mai raggiunto questo numero nell'ultimo decennio. È curioso perché coincide con un periodo che non è stato brillante, nel senso che poca neve, diciamo che la natura ha fatto qualche scherzo così alle nostre tradizioni. Perché c'è questa voglia? Perché c'è una riscoperta della montagna e del bianco soprattutto che rappresenta la montagna, perché di per sé è un concetto di comunque di relax e di benessere, quindi trasmette una sensazione positiva. Anche questo incide sul desiderio comunque degli italiani, anche degli stranieri, ma in questo caso parliamo degli italiani, di tornare comunque in montagna. Attenzione, non in montagna solo per sciare, è importante dire anche questo, ma in montagna anche per piccoli weekend, due giorni, un breve soggiorno anche al centro benessere, una cena in una baita, tutto ciò che è comunque vivere la montagna senza per forza dover sciare. E altra grande tradizione, naturalmente, è quella della prima della scala. Un'io all'azzurro spazio guardai profondo. Marta Cagnola, la nostra Marta Cagnola, altra tradizione ormai della prima della scala milanese, quantomeno per Radio 24. Sì, ormai da tantissimi anni. Che cosa stiamo ascoltando? Allora, un dì all'azzurro spazio, questo è Franco Corelli, l'Andrea Chenier che questa sera aprirà la stagione scaligera. Non spaventatevi se non conoscete bene l'Andrea Chenier. In questi giorni tutti mi chiedono, ma l'Andrea Chenier di chi? Di Umberto Giordano, opera verista che debuttò nel 1896, che manca dall'apertura della Scala da molti anni, non viene rappresentata dal 1985, se ne rammarica molto il direttore Chailly, che dice, insomma, è un peccato perché è importante riscoprire il verismo, opera verista che racconta storie di rivoluzione francese. Un'altra cosa, insomma, per la quale c'è un po' di rammarico è che non ci saranno le massime cariche dello Stato oggi alla Scala. Uno, insomma, degli obblighi del giornalista è andare anche a vedere chi ci sarà nel palco reale e chi ci sarà in platea alla Scala. Non ci saranno il Presidente della Repubblica, non ci sarà il Presidente del Consiglio, non ci sarà il Presidente del Senato. Ci sarà Maria Elena Boschi, ci dovrebbe essere il Ministro Franceschini, insomma, meno istituzioni, meno VIP, ma una grande, grandissima attesa in città. Io sono già andata, come faccio sempre la mattina del 7 dicembre, a curiosare l'atmosfera attorno alla Scala. Tantissima gente, in tanti si fanno selfie davanti alla Scala e davanti agli alberi di Natale bellissimi allestiti attorno a Piazza della Scala. Ci sono 27 luoghi in città in cui si può seguire l'opera in diretta, dall'ottagono di Galleria Vittorio Emanuele al passante ferroviario, dal Terminal 1 di Malpensa a, come di consueto, il carcere di San Vittore, ma anche in diretta televisiva su Rai 1, certo meno famosa di altre opere. Sono curiosa anche di capire quale sarà l'attenzione del pubblico televisivo, perché appunto l'Andrea Chenier è un po' meno nota. Allora, grazie Marta, e quindi aspettiamo i tuoi racconti nei vari appuntamenti di Radio 24. Noi ci fermiamo adesso, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo, iniziamo il nostro Giro d'Italia. Parecchi gli argomenti oggi, a partire da queste nuove entrate all'interno dei provvedimenti della manovra, della legge di stabilità, la multa doppia chiusa il telefonino in auto, e poi una questione della quale ci siamo occupati moltissimo: arriva l'obbligo dei sensori per il seggiolino antiabbandono. Storie ne avete sentite e ne abbiamo raccontato, storie di genitori che si dimenticano per una sorta di blackout mentale che è stato anche codificato dagli psicologi, i figli nelle auto, e purtroppo in alcuni casi questi bambini perdono la vita. E poi anche qualche storia più leggera, a partire da questo Consiglio regionale del Veneto, il Consiglio regionale del Veneto che ha deciso, o quantomeno vorrebbe, finanziare i presepi nelle scuole. Potete immaginare le polemiche tra quelli che dicono: ragazzi, ma per le scuole bisognerebbe fare qualcosa di diverso, non certo finanziare i presepi. Traffico. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, e sempre 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp e la diretta video sulla nostra pagina Facebook. Abbiamo appurato che anche oggi la diretta Facebook è attiva, grazie a Dina Cicciarella, come sempre la cura. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dei dati arrivati oggi sul lavoro, dello scontro ancora aperto su Gerusalemme, sulle decisioni di Trump, della vicenda degli avvelenamenti da taglio, è finito in manette il nipote, e tra l'altro ci sono le sue dichiarazioni di pochi istanti fa. Dice ai carabinieri: non saprete mai perché l'ho fatto, non ho da collaborare con la vostra istituzione. E ancora la richiesta su quale avvocato avesse, dice: non ho bisogno di altre persone che parlino al posto mio, scegliete dall'elenco del telefono la persona che più vi aggrada. Abbiamo parlato dei due blitz, uno contro gli skinhead a Como e poi l'apertura di un'indagine della Procura di Roma sul blitz invece di Forza Nuova, la sede di Repubblica, e dell'ordigno esploso davanti a una sede dei carabinieri, a una caserma dei carabinieri a San Giovanni, sempre quartiere della capitale. Adesso iniziamo il nostro Giro d'Italia e iniziamo dalle novità in arrivo con la legge di bilancio. Ci sono anche delle novità che riguardano, per così dire, il codice della strada e non solamente quello. Per quanto riguarda più strettamente il codice della strada, c'è queste sanzioni salatissimo che arrivano con sospensione della patente per chi guida parlando al cellulare senza viva voce. E invece, su una questione della quale ci siamo occupati abbastanza spesso e che è incomprensibile a volte per molti nostri ascoltatori, ma in realtà è un episodio che è codificato dalla psicologia, ossia il rischio di abbandono di bambini in auto, che ha portato a dei drammi terribili. Tutti noi che siamo genitori possiamo solamente immaginare da lontano che cosa rappresenti. Arriva appunto l'obbligo di un segnalatore sonoro, sostanzialmente un sensore all'interno dei seggiolini per evitare un rischio di questo genere. Io ringrazio Andrea Albanese, che è padre di Luca Albanese, un bambino di 2 anni che morì in auto proprio qualche anno fa, e lo ringrazio anche perché immagino lo chiamiamo spesso su questi argomenti, e rievocare quei momenti non penso che sia facile, e però è la persona che ha condotto la battaglia perché questa norma fosse approvata. Albanese, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. E da questo punto di vista è un buongiorno, no? Ma sì, lo sarà ancora di più quando questa manovra diventerà effettivamente legge. Una battaglia che per voi finalmente prende corpo, no? Sì, sì, è stato fatto un bel passo avanti. Negli ultimi mesi la politica ha preso coscienza della necessità di dover intervenire su questo problema. E quindi questo per noi era qualcosa che non era assolutamente scontato. E oltre alla politica anche l'opinione pubblica, perché comunque già il fatto che inizialmente non si parlasse di questo argomento, di questo problema, era il problema principale. Tecnicamente come funzionano questi seggiolini, Albanese? Perché immagino che si sarà, saprà come agiscono. Ma in realtà sono tanti ormai i modi che la tecnologia ti consente di utilizzare per evitare questi incidenti. Si va dal sensore installato sul seggiolino al sistema un po' più complesso e sicuramente più efficace collegato alla centralina dell'auto. Che in questo caso appunto abbassa addirittura i finestrini in certi casi, insomma, no? Per far esatto, questo è un punto molto importante, perché secondo me l'efficacia massima si avrebbe se questi sistemi riuscissero a dare l'allarme all'esterno, cioè non solo al genitore che è in macchina, ma anche ai passanti che eventualmente dovessero sentire un clacson o comunque accorgersi della situazione grazie all'allarme dell'auto. Io la ringrazio, grazie ad Andrea Albanese per essere stato con noi, animatore tra l'altro e fondatore del gruppo Facebook Mai Più Morti Come Luca, e che ha condotto questa battaglia, e la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, le auguro buona giornata. Noi cambiamo e vediamo, ovviamente terremo monitorato il tutto, vedremo se poi la manovra sarà approvata effettivamente com'è. Cambiamo decisamente argomento e veniamo ad un tema che in questi giorni sta andando un po' dappertutto, ed è il tema della religione nelle scuole. Allora, partiamo dal preside di Palermo, che ha deciso di togliere la statua della Madonna e impedire le preghiere in chiesa, passando da tutti i comuni che stanno dicendo e stanno facendo le ordinanze per far sì, per stimolare le scuole a mettere i presepi. Addirittura il sindaco di Sesto San Giovanni a quanto pare le sta regalando alle scuole. E poi abbiamo la Regione Veneto. La Regione Veneto che ha approvato una mozione in Consiglio regionale nella quale si ipotizza di finanziare i presepi per le scuole. Andrea Bassi, che è consigliere del gruppo consiliare Centrodestra Veneto, Autonomia e Libertà, è il proponente di questa mozione, che non sappiamo poi, essendo una mozione, se avrà un'applicazione pratica effettiva, però il Consiglio l'ha approvata, Bassi, no? Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Beh, la mozione è stata approvata, poi la concretizzazione naturalmente ci sarà con il bilancio di previsione 2018, visti i tempi, e ne stiamo proprio parlando in questi giorni, quindi è un'iniziativa che evidentemente andrà a ricadere sul 2018. E se posso permettermi però, vorrei precisare una cosa che è molto importante, perché poi sì, questa toglie tante polemiche probabilmente dal banco. Che noi abbiamo agito non per reintrodurre chissà quale tipologia di attività religiosa all'interno delle scuole e renderla obbligatoria per tutti, ma noi siamo partiti un po' da quella serie di sentenze giuridiche di tipo europeo, di tipo comunitario, diciamo, ma anche relative alla giurisdizione italiana, che hanno affermato sostanzialmente che il crocifisso apposto in sedi pubbliche non ha nulla di coercitivo, perché rappresenta un simbolo di storia, di cultura e tradizione, cioè sì, ha un valore che va oltre i confini della religione. Allora Bassi, però mi scusi, sì, su prego. Questo potremmo discutere all'infinito, ci sono opinioni diverse, c'è la vostra, ce ne sono altre e via dicendo. Nel senso che ci sono queste valutazioni europee, però si può anche, sono anche discutibili, perché non è che tutte le norme, no, sono, possono tutto essere discutibile, tutto è discutibile. Quello che mi sembra discutibile di questa proposta è il fatto di finanziarli questi presepi, perché sa, un conto è dire potete mettere i presepi nelle scuole, un conto è dire ti do dei soldi pubblici per comprare un presepe, è un po' diverso, no? Beh, noi naturalmente il nostro è un invito, perché non possiamo entrare, sappiamo che c'è l'autonomia scolastica, l'azione è scrivere ad ogni preside, diciamo ogni dirigente scolastico, perché ora il termine corretto è questo, dire la regione ha piacere che succeda questo, e naturalmente un'amministrazione seria quando fa una proposta dà anche un sostegno di tipo economico per farlo. Poi è chiaro, se poi la mettiamo come qualcuno ha fatto, ma le scuole cadono a pezzi, anche qui dobbiamo anche fare un po' di ordine su chi ha la competenza su cosa, perché sappiamo che le scuole fino alle elementari, così ci capiamo, sono di competenza, fino alle medie, scusate, sono di competenza dei comuni, le superiori sono di competenza delle province. Nonostante questo, la regione molto spesso fa dei bandi in cui stanzia dei soldi per la messa in sicurezza, per l'ampliamento delle scuole, eccetera. Noi proponiamo naturalmente un qualcosa che ha un impatto minimo naturalmente sulle casse della regione, e magari possiamo andare Quanto state ipotizzando? Stiamo ipotizzando tra i 50 e i 100 mila euro, quindi non per tutta la regione. Ed però, naturalmente una delle volontà, però è tutto adesso in fase di discussione la cifra, perché proprio, ripeto, stiamo discutendo in queste ore il bilancio di previsione 2018. Beh, però con 50, prego, prego. Con 50, 100 mila euro, beh, qualcosa ci fai, magari ci metti, non lo so, il wifi in un centinaio di scuole, ipoteticamente, dico, sembrare profano, perdoni. Ripeto, tutto, io ho sempre grande rispetto delle opinioni, delle critiche, le ascolto sempre con molta attenzione. Ripeto, questi soldi non è detto che debbano venire da capitoli, per esempio, dedicati alla scuola, li si può prendere da capitoli dedicati, non so, per esempio, al cofinanziamento di manifestazioni di altro tipo. Cioè, sì. Nulla è un work in progress, cioè il conto è che fosse accettata, ma vorrei anche che si capisse perché che è stata fatta questa azione. Non è solo un puro esercizio giuridico, sì. ma è anche perché riteniamo che le scuole, come luoghi di eccellenza per l'educazione e la formazione del futuro dei nostri giovani, abbiano bisogno del presepe. No, mi lasci finire, cerco di essere velocissimo. Secondo noi, sarebbe importante che i ragazzi italiani, e non, perché le scuole sono i luoghi dove c'è una multiculturalità sempre più alta e sempre più presente, e quindi talvolta conoscere attraverso i simboli dei valori che hanno contraddistinto comunque, perché ripeto, stiamo parlando di simboli che racchiudono dei valori che non sono più solo religiosi, ma che hanno anche contraddistinto appunto il nostro vivere civile e molto spesso anche le nostre leggi sulle quali appunto si fonda la nostra civiltà e la nostra nazione. Rispetto che conoscendo il perché siano nati questi simboli, conoscendoli, studiandoli e anche mettendoli in discussione, perché no, possa essere importante. Possono essere importanti per creare appunto una discussione su queste tematiche, sostanzialmente. Beh, è questo, e anche perché chi arriva da altri paesi possa capire per quale motivo, da dove derivano alcuni valori fondanti della nostra nazione. Allora, io la ringrazio Andrea Bassi per, insomma, le abbiamo dato spazio, consigliere del gruppo consigliare Centrodestra Veneto Autonomia e Libertà. Un ascoltatore ci scrive: saranno pur liberi i veneti di decidere dove mettere i loro soldi. E che vi devo dire? Fate un referendum pure sui presepi nelle scuole per decidere dove mettere i soldi, se metterli nei presepi o per esempio nella carta igienica. Ma ripeto, senza, lo dico laicamente, appunto. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo. E poi, ci sposteremo dal Veneto alla Calabria, dove i comuni commissariati per mafia stanno protestando, gli ex sindaci, perché dicono: guardate che la vera 'ndrangheta si annida all'interno della burocrazia e dell'amministrazione, e voi ci state facendo un torto, togliendoci potere politico. E poi il sindaco di Gallarate, che voleva contare i profughi che passano all'interno del comune e al quale il TAR gli ha detto: mi dispiace, non lo puoi fare. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: lavoro, 80.000 posti in più nel terzo trimestre dell'anno, occupati in crescita, forte balzo dei contratti a termine. A Gerusalemme resta alta la tensione sulla decisione di Trump, sciopero generale palestinese, condanne da tutto il mondo. Avvelenamenti da taglio, in manette il nipote, voleva sterminare tutta la famiglia, dice la procura. Skinhead a Como, perquisizioni e sequestri, mentre la procura di Roma apre un'inchiesta sul blitz di Forza Nuova alla sede di Repubblica. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Ed eccoci di nuovo col nostro Giro d'Italia. Solo un paio di risposte sui presepi. Ma ragazzi, ma non... figuratevi se è un problema per me che mettano un presepe nelle scuole. Non c'è nessun problema. L'altro giorno abbiamo parlato con il sindaco di Orbassano, che ha fatto un'ordinanza apposta, un'ordinanza per invitare le scuole a mettere il presepe. E però non ci mette un quattrino di denaro pubblico. Qua il tema non sono i presepi, è il denaro pubblico e per cosa lo utilizzi. Punto e basta. Non è nient'altro che questo. Poi, se ritenete che vadano spesi dei soldi della regione per comprare dei presepi da mettere nelle scuole, chissà perché non da qualche altra parte, perché non finanziarli per metterli nelle case, beh, padroni di esserlo, però c'è un tema da questo punto di vista. Comunque, cambiamo decisamente argomento e, come si diceva, dal Veneto ci spostiamo alla Calabria. Calabria, dove ci sono una cinquantina di comuni tra sciolti per mafia o in odore di scioglimento, che sostanzialmente hanno scritto al governo. Negli ultimi 5 anni, considerate, la Calabria ha subito 43 scioglimenti, racconta oggi Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, sugli 81 totali contro i 18, per esempio, della Campania. E scrivono perché? Per dire, qua la vera 'ndrangheta si annida nella burocrazia comunale, è negli interstizi dell'amministrazione, non è solamente o è solamente in parte nella politica. E quindi questo togliere potere ai sindaci con il commissariamento, mettere dei commissari, può rappresentare una sorta di vulnus e sicuramente un problema. Gianluca Callipo, lo saluto, buongiorno, è sindaco di Pizzo Calabro e presidente di ANCI Calabria. Buongiorno, eccoci Callipo. Allora, che cosa chiedono i suoi colleghi? Ah, innanzitutto giusto una precisazione: i 51 sindaci che hanno firmato questo documento e che poi hanno avuto un incontro con il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, in realtà sono sindaci che non sono stati sciolti, né sono sindaci che hanno commissione di accesso antimafia, quindi non hanno... diciamo, almeno dalle notizie insomma pubbliche quindi da ciò che risulta, non hanno problemi di scioglimento, ma hanno evidenziato la necessità che ci sia una revisione della normativa sugli scioglimenti per renderla più efficace. Io sono stato invitato dal prefetto di Reggio Calabria in qualità di presidente dell'ANCI regionale, ho partecipato a questo incontro che si è svolto in modo sereno e che ha evidenziato come quando in un comune si attua uno scioglimento anche per 2 o per 3 volte nel giro di diciamo un numero non eccessivo di anni, evidentemente è qualcosa che non va, c'è. Sì. Ed evidentemente questa cosa ha aperto anche un dibattito in Calabria da alcune settimane. Anche l'ANCI regionale ha proprio poche settimane fa deciso di attivare una commissione interna per approfondire quelle che possono essere delle proposte da sottoporre al legislatore e al governo di miglioramento di uno strumento che è indispensabile per la lotta all'andrangheta, ma che evidentemente richiede anche delle migliorie, per esempio un intervento più importante sugli apparati burocratico-amministrativi. Però Callipo, mi scusi, si chiama un commissario esattamente per questo, proprio perché si pensa che la politica per certi versi sia anche elettoralmente più ricattabile e quindi non abbia la forza di intervenire su quegli apparati burocratici e amministrativi, dal segretario comunale al tecnico comunale eccetera eccetera, che magari sono quelli veramente collusi, e quindi si manda uno da fuori perché non è sul territorio, non ha rapporti sul territorio eccetera eccetera, e picchia duro dove deve picchiare. Quindi il senso del commissario è esattamente questo, no? Siamo d'accordo, siamo assolutamente d'accordo. La posizione di ANCI Calabria è quella che la norma del commissariamento dei comuni chiaramente va portata avanti, è una norma valida, e ci sono situazioni di scioglimenti che chiaramente riguardano anche in modo importante la parte politica. Noi semplicemente riteniamo che ci possano essere dei miglioramenti per rafforzare alcuni strumenti, perché è chiaro che se un comune viene sciolto per due o tre volte di consecutive, anche attraverso il commissariamento, evidentemente i problemi non si sono risolti, o comunque non sempre si riescono a risolvere. Quello che si è chiesto, si sta chiedendo, è lavorare tutti insieme le istituzioni di questo territorio per evitare che i sindaci si possano sentire soli e possano essere sostenuti dai vari pezzi dello Stato, perché poi il comune è un pezzo dello Stato, è anche un pezzo importante, perché è quello che ha il confronto quotidiano col cittadino. Avere un supporto con le prefetture, con le procure, con le questure, per riuscire a rafforzare evidentemente una istituzione importantissima che in Calabria è obiettivamente spesso sotto attacco, e lo dimostrano i numeri importanti purtroppo di scioglimenti che in questa regione sono un dato di fatto oggettivo. Vedremo come andrà a finire questa vicenda e che cosa verrà accolto delle vostre proposte. Intanto la ringrazio, grazie a Gianluca Callipo, sindaco di Pizzo e presidente di ANCI Calabria. L'auguro buona giornata, e per chiudere ci spostiamo rapidamente a Gallarate, siamo in Lombardia, dove era l'unico comune rimasto ad avere in vigore quell'ordinanza che prevede il fatto che ai gestori dei centri che si occupano di profughi dovevano comunicare il numero di ospiti contratti d'affitto e via dicendo. Ebbene, ieri il TAR, Andrea Cassani, sindaco di Gallarate, ha detto non potete averla un'ordinanza fatta così. Sì, buongiorno a tutti. Sì, purtroppo il TAR ha preso questa decisione. Noi più che contare i profughi volevamo essere informati su quanti profughi e su dove venivano portati a parte della prefettura dello Stato, ma non era un capriccio del sindaco, volevamo solamente un aggiornamento ogni due settimane, e tra l'altro uno dei due soggetti che Gallarate accoglie questi richiedenti asilo aveva accolto con favore anche sulla stampa questa ordinanza. Non è bastato evidentemente un caso di malaria accertato dalla nostra azienda sociosanitaria territoriale, di un caso di malaria nei confronti di cittadini italiani di origine nigeriana di ritorno dalla Nigeria, un caso di un sospetto di malattia febbrile un ragazzo di origini cubane che tornava da Cuba, tant'è che la TS in Subria aveva in via precauzionale fatto una disinfestazione ambientale. Non è bastato che il comune avesse ravvisato la mancanza di allacciamento alla pubblica fognatura comunale da parte di una struttura che accoglieva queste persone, la stessa ufficio autorizzazione ambientale della provincia non aveva mai rilasciato nessuna autorizzazione, l'ARPA addirittura ha constatato che un insediamento era in un'area priva di rete fognaria e vi era uno scarico di liquami attraverso subirrigazione e pozzi perdenti in un'area di interesse nella fascia di rispetto della captazione di acqua sotterranea destinata al consumo umano. Quindi non sono bastate queste cose, non sono bastati i video di pubblico dominio di questi soggetti accatastati per terra all'interno di un centro, figuriamoci ora che, prendo atto della decisione del TAR e la rispetto, non possiamo più sapere nulla. Chissà in quanti alloggi magari privati verranno dislocate queste persone, di cui noi non saprete nulla. Cassani, io devo andare a chiudere, solo una cosa, farete ricorso sì o no? Io non penso che faremo ricorso, innanzitutto questa è una sospensiva e tra l'altro si discuterà nel merito a maggio, quando di fatto l'ordinanza scadeva il 31 dicembre. Penso che non ci arrenderemo di certo e utilizzeremo altro strumento, come potrebbe essere il regolamento, perché noi non ci arrendiamo di fronte a questa ingiustizia. Il sindaco è tenuto a interessarsi, è rappresentante della comunità locale e deve fare il possibile per assicurare la sicurezza e l'igiene dei propri cittadini. La ringrazio, Cassani, devo veramente chiudere. Grazie al sindaco di Gallarate, Andrea Cassani. A chi ci chiede di che corrente politica sono i comuni calabresi commissariati, sono praticamente di tutte le correnti politiche. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.